Dopo più di 40 anni che affronto argomenti di ogni genere, mi sono reso conto di non aver fatto uno studio specifico sul tema dell'orgoglio. In seguito ne ho capito il perché. Ho preso coscienza di questa apparenza svista assistendo a una normale discussione tra marito e moglie. Il marito rilevava alla moglie la mancanza di collaborazione e che il suo relazionarsi con lui era il frutto di un certo individualismo. Individualismo palesato dalle ricorrenti parole della sposa: «Ti comunico che ho deciso questo». Il marito, che si era sposato proprio per vivere un matrimonio dove la collaborazione sarebbe stata l'anima della loro convivenza, ne soffriva ormai da anni e con un cuore appesantito e senza giudizio, rivelava ancora una volta alla moglie la sua mancanza, con la speranza di farle prendere coscienza dell'errore. Però le accorate implorazioni del marito arrivavano ancora una volta come un giudizio, e la moglie, per giustificarsi, ricordò al marito un avvenimento successo più di 20 anni prima, citandolo come causa del proprio comportamento individualistico. La conversazione si dilungava, quando ad un tratto il marito si rese conto di un particolare e, con la massima calma e l'affetto che provava, le chiese: «Per caso il mio comportamento non ti ha forse ferito nell'orgoglio?» La donna, senza battere ciglio, rispose prontamente con un tono di vittoria: «Sì, io sono stata ferita nel profondo del mio orgoglio, del mio essere, perché mi hai impedito di realizzare un mio obiettivo». Il marito non aveva parole. Non tanto per il fatto che la moglie fosse ferita nell'orgoglio, perché tale esperienza è comune nella razza umana più dei granelli di sabbia sulla riva del mare, ma per il vantarsi della donna riguardo al proprio orgoglio ferito. Diversamente, le parole della donna avrebbero palesato lo spirito abbattuto di chi confessa una colpa. Per la prima volta mi resi conto come l'orgoglio possa essere ritenuto sacro e inviolabile ad ogni attacco esterno. Da un certo punto di vista, occorre riconoscere l'esistenza di una certa legittimità nell'impedire a qualsiasi estraneo di toccare il profondo del proprio essere, ma chi professa di essersi arreso a Cristo, dandogli la possibilità di penetrare e di comandare gli angoli più recessi del cuore per rinunciare al proprio orgoglio, non ha più la possibilità di sentirsi offeso. E la moglie in questione era proprio una figlia di Dio. Come ogni essere umano, anch'io sono stato concepito nel peccato, ho ereditato una natura inclinata a compiere il male, e l'inclinazione a compiere il male era presente in me anche quando desideravo compiere il bene. Ma quando a 21 anni ho ricevuto lo Spirito, quello santo, per la fede in Cristo, ho ereditato una natura nuova, niente meno quella divina del Dio Trino. Da quel giorno abitano in me due nature, con due opposte volontà. Verità, questa, espressa dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati: «Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne». La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. GL 5.1-6-17. Dal giorno della mia resa incondizionata a Gesù Cristo, ho realizzato che vivere condotto dallo Spirito mi impediva di soddisfare ogni inclinazione umana malvagia, compreso l'orgoglio. Ma venne il giorno che questo fu reso inerme in modo definitivo. Nel leggere la parola di Dio, una affermazione di Gesù penetrò nel mio intimo più profondo, al punto tale che non fui più me stesso, similmente al momento della mia resa incondizionata a Dio. Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Mem 7.11. Gesù mi ha dichiarato malvagio nonostante abbia dei sentimenti e comportamenti privi di cattiveria, come il dare dei buoni doni a chi voglio bene. Questa rivelazione ha tolto in me per sempre ogni presunta bontà o senso di orgoglio. Qualche credente potrebbe obiettare che una simile esperienza non sia possibile perché la nostra malvagia natura non è mai stata tolta in noi, e questo è vero, ma la mia esperienza rimane e non posso negarla. Ho cercato di dare una spiegazione anche a me stesso di questa particolarità un poco insolita, ma credo che la coscienza di non cadere nell'orgoglio sia stata causata da una sorta di trauma provocato dalla rivelazione ricevuta dalla parola di Dio, e tutti sanno che un trauma può produrre effetti per tutta la vita. Per esempio, da quando mia moglie da bambina ha avuto un incontro sgradevole con un maniaco sessuale, ne porta le conseguenze ancora oggi. Quando ero piccolo, mia madre, per salvarmi dalle bombe di un apparecchio, mi costrinse ad entrare in un tubo, e ancora oggi non sono tanto libero di entrare in spazi piccoli. Così deve essere successo per me con Cristo Gesù. Mi ha parlato con una tale violenza da togliere in me il minimo pensiero di essere inviolabile nell'onore. Anche perché, per essere offeso, bisogna che ci sia l'onore. Può uno che è morto con Cristo avere ancora dell'onore da difendere? Ecco spiegata la mia sorpresa davanti a chi si dichiari ferito nell'onore. Trattandosi di un credente che è morto con Cristo, quale onore può possedere? Personalmente, l'essere offesi nell'onore era un'esperienza precedente la mia conoscenza di Gesù Cristo quale personale salvatore e padrone della vita da Lui stesso concessami. Certo, un simile discorso sembra mostrare proprio l'orgoglio allo stato puro, per cui o non sono consapevole di comportarmi da orgoglioso, oppure è vero che essere cosciente della propria malvagità e tenerlo presente ad ogni istante e in ogni situazione non stimola certamente nessun vanto personale. Com'è possibile vantarsi di se stessi quando si sa di essere malvagi? Se faccio del bene, se ottengo dei risultati positivi o dei meriti, se ricevo qualche ombra di onore, sono consapevole, quella consapevolezza in grado di cambiare la vita. Che non si tratta del risultato di una mia propria capacità, ma dell'opera della persona dello Spirito Santo in me. Mentre riguardo al male che compio di qualsiasi tipo, esso è solo il risultato della mia natura corrotta. Quando sono convinto di non poter produrre niente di buono, come posso vantarmi? Che orgoglio posso possedere? Perché offendermi se mi viene detto qualcosa che in qualche modo corrisponde alla verità? E se fosse una calunnia, che motivo ho da offendermi? In queste situazioni nel mio cuore nasce subito un pensiero redentivo, un immediato desiderio di aiutare la persona che si trova in difficoltà, perché chi offende e calunnia è sempre in difficoltà. Se poi mi si fa notare un errore, chiedere perdono alla persona e rimediare quando è possibile sono i miei obiettivi, come del resto quelli di ogni figlio di Dio. Non è difficile avere la giusta relazione con il prossimo quando si è del continuo consapevoli di essere profondamente malvagi. Per quanto mi riguarda, devo confessare che fino ad oggi non ho trovato una persona peggiore di me, perché per quanto non abbia certamente toccato la feccia del peccato, vedo negli altri virtù che io vorrei avere. Se non ho ancora fatto certe squallide esperienze, ciò non è dovuto alle mie virtù, ma solo perché Dio non ha permesso le occasioni. Nella sua misericordia ha condotto i miei piedi su terreni percorribili, ma se avessi avuto tentazioni e prove che altri hanno avuto, sono certo che avrei fatto peggio di loro. Per questo, conscio della mia debolezza, abita stabile nel mio cuore la preghiera. Non indurmi in tentazione, cioè non permettere che io sia messo in condizioni tali da poter cadere. So che vi è la promessa che non saremo tentati oltre le nostre forze, 1 Corinzi 10.1-3. Ma mi vedo talmente malvagio da temere delle mie stesse capacità. Tra tutti i peccati e mancanze davanti a Dio, l'orgoglio è certamente il re dei re, è il peccato che ad un certo punto può diventare imperdonabile. In effetti Gesù è morto per tutti i peccati della razza umana, riconciliando l'uomo a Dio, e è morto per il peccato di ribellione di Adamo ed Eva, per l'omicidio di Caino, per le menzogne di Abramo, per l'incredulità di Mosè, per il vile omicidio e il concupiscente adulterio del re Davide, per l'idolatria di Salomone, per il rinnegamento di Pietro, per le persecuzioni che Paolo fece subire ai primi cristiani, per tutti i miei peccati e per i tuoi. Ma se si rifiuta con un atto di orgoglio l'opera di convincimento della persona dello Spirito di Dio, allora non vi è più nessun rimedio, e se oltrepassa questa vita terrena portando con sé tutte le proprie... Noi siamo abituati a condannare l'orgoglio in questa vita ritenendolo ripugnante. Se questo è il nostro atteggiamento nonostante la nostra imperfetta e limitata opinione, Come puoi, come sarà ritenuto l'orgoglio sotto i riflettori galattici di Dio tre volte santo? Solo la condanna eterna può rivelarne la gravità, perché l'orgoglio è un peccato così grave e diverso dagli altri peccati. In fondo, l'omicidio, la menzogna, la violenza carnale non sembrano poi peccati così piccoli. È vero, ma mentre tutti gli altri peccati sono nei confronti di Dio ma indiretti, l'orgoglio è diretto. Se manco verso il mio prossimo, pecco contro una creatura che Dio ha fatta a sua immagine e somiglianza. Mentre se sono orgoglioso nei confronti del Dio Trino, manco di rispetto nei confronti della sua pluripersonalità e lo faccio bugiardo, 1 Giovanni 5.10. Infatti, nei confronti di un inventore, è più grave distruggerne l'opera o mancargli di rispetto. In un mondo come quello di oggi, dove la dignità umana viene considerata poco, una domanda del genere può lasciare una certa indifferenza. Ma al tempo dei grandi sovrani era meglio imbattersi in un'orsa derubata dei suoi piccoli che mostrare orgoglio nei confronti del re. Così è pure nei confronti di Dio, anche se vi è una differenza che sembra piccola ma è abissale. Mentre nei confronti di un sovrano, se si è orgogliosi, si offende l'orgoglio del sovrano, se si è orgogliosi nei confronti di Dio, se ne portano solo delle conseguenze a proprio danno. Infatti siamo noi che, incamminati verso la perdizione eterna, meno abbiamo un disperato bisogno di evitarne le conseguenze, per cui abbiamo tutto il vantaggio di morire al nostro inutile, stupido e apparentemente inviolabile orgoglio e rinunciare, volontariamente, una volta per sempre, alla nostra terrificante volontà. Quando la volontà, meno cioè me stesso, meno, è sottoposta totalmente per sempre a quella di Cristo Gesù, allora l'orgoglio è annullato, reso inefficace. Provare per credere, o meglio, credere per poter provare. Maggio 2008, Ellero.